Notizia shock. Federica Pellegrini lascia la vasca. Tutto il giorno in una vasca, con l'acqua calda che mi coccola la testa. Per un anno farà solo la doccia.